Ben ritrovato Giovanni Meola. Ciao, buongiorno. Ti chiamo, ci sentiamo in questo momento in quanto sei autore, regista e attore dello spettacolo Io so, io ho le prove, la conversione di un ex manager bancario che sarà in scena al Pactasalone di Milano dal 23 al 25 di febbraio. Ne avevamo già parlato con te e ci racconti brevemente di questa storia? La drammaturgia nasce da un libero adattamento di un libro memoriale che è stato pubblicato 3 anni fa e che è diventato un vero e proprio caso editoriale, perché è la prima volta nella storia, diciamo, che una gola profonda del sistema bancario ne esce e racconta, quindi con una profonda conoscenza dal di dentro, di tutto un mondo, quello delle banche, del sistema bancario, dalla privatizzazione della metà degli anni 90 in poi, e delle sue pratiche che purtroppo, ed è sotto gli occhi di tutti, le grandi crisi che si sono succedute in questi anni nelle grosse banche, ma anche nelle piccole banche, ha devastato famiglie, vite, lavori, e questo ex manager bancario ha fatto luce sulle pratiche, sulle modalità che si situano sul confine tra la legalità e l'illegalità e quindi hanno prodotto grossi sfracelli nell'ultimo ventennio, andando a danneggiare soprattutto l'economia reale di questo paese. Sì. Senti, per la messa in scena, come ti sei mosso rispetto al libro? Allora, innanzitutto l'adattamento chiaramente prende solo spunto dal libro, perché il libro non è un romanzo, è un memoriale. Io quindi ho fatto prima un percorso di conoscenza di questo ex manager bancario, quindi gli ho fatto una lunghissima intervista, entrando proprio a gamba tesa nella sua vita, se vogliamo. Da quel punto in poi ho poi costruito la mia drammaturgia, una drammaturgia che chiaramente presenta la storia di un uomo che è molto determinato, perché è una persona che nasce in un quartiere ultrapopolare di Napoli e quindi crea, attraverso uno studio feroce, la condizione per prendere il cosiddetto ascensore sociale, che oggi è roba che ci siamo completamente dimenticati, ma poi pone le sue enormi doti al servizio di questo mondo in trasformazione che di fatto andrà a creare tantissimi problemi. E la messa in scena rischiava, se non ci avessi fatto attenzione, di essere schiacciata molto su un tema che, ahimè, devo dire, purtroppo viene spesso percepito come pesante. Invece io credo che la banca, che il rapporto con il sistema bancario debba essere estremamente approfondito e conosciuto dal cittadino. Perché forse non ci rendiamo troppo conto, le banche influenzano la nostra vita molto di più di quanto noi stessi pensiamo. Quindi la messa in scena è andata in una certa direzione. Quale? Innanzitutto la drammaturgia è scritta come un monologo. Sì. Quindi io ho deciso di tornare in scena dopo un po' di anni perché sentivo molto fortemente questa vicenda e mi sono messo in scena. Ma non volevo che, ripeto, tutto fosse schiacciato sulla tematica. Quindi mi è venuta questa idea di affiancarmi in scena una musicista che in questo caso suona in scena la fisarmonica, avendo composto le musiche originali di questo spettacolo. Sono 7 brani che intervallano e accompagnano e cuciono i vari punti e le varie parti dello spettacolo, ma Daniela Esposito, che è in scena con me, non è solo ed esclusivamente la classica musicista che è in scena, che si attiva solo quando tocca a lei, no. Io ho voluto inserire Daniela Esposito in tutto il percorso drammaturgico, per cui sì, sulla carta è un monologo, ma in realtà in scena è una performance con 2 attori, perché lei è anche attrice muta. Attrice muta per cosa? E questo personaggio racconta di tanti altri personaggi con i quali ha avuto a che fare, personaggi che ha danneggiato, personaggi che lo hanno aiutato, personaggi con i quali si è scontrato. Ecco, Daniela interpreta in maniera muta e molto spesso in maniera molto ironica questi altri personaggi. Per finire, la messa in scena ha voluto giocare molto diciamo, come dire, sul rapporto e dialogo tra il corpo verbale, perché chiaramente è un monologo, ci sono tante parole, viene raccontata una storia, e il suono, scenico, per cui gli oggetti di scena che io stesso utilizzo nel corso dello spettacolo, in realtà poi sono anche tutti in altro momento e con altro segno suonati da Daniela, che è anche una rumorista. E tutto questo ci permette di creare quindi un'atmosfera che non è assolutamente, come dire, riferita ad un naturalismo spinto, ma credo riesca a creare un'atmosfera un attimo staccata, ma profondamente poi incistata nella realtà, dei nostri giorni. Quindi ho cercato di lavorare su questo connubio, ecco. Giovanni, questo spettacolo ha già un po' di tempo, lo stai portando in giro, che tipo di riscontri hai avuto? Allora, io credo che forse c'era il bisogno di uno spettacolo che parlasse di questi temi e forse anche con queste modalità, perché il riscontro è stato eccezionale, nel senso che tantissime persone hanno sentito il bisogno di rimanere a, non tanto e non solo a farci eventuali complimenti che fanno sempre enormemente piacere, o magari a farci notare quelle cose che magari potevano dal loro punto di vista non funzionare, ma ci hanno voluto comunicare la gioia di aver potuto, attraverso uno spettacolo, prendere contatto con una realtà della quale molte persone spesso si sono disinteressate, sbagliando. Ti faccio soltanto due esempi. Una persona di una certa età, dopo una delle nostre repliche, è venuto da me e mi ha detto: "Ma tu sai che mi hai fatto aprire una voragine nel cervello con questo spettacolo, perché mi hai fatto ricordare di quando sono andato a chiedere un prestito, un mutuo per acquistare casa in banca, e mi sono trovato di fronte alla necessità, all'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa." Ora, per legge questo obbligo non esiste, è una pratica scorretta delle banche. E lui, attraverso il nostro racconto, attraverso il nostro spettacolo, ha rivissuto, e forse catarticamente si è anche, come dire, liberato di questo peso che non sapeva consciamente di avere, e mi ha detto: "Io da oggi, in qualunque momento mi accadrà di ritornare in banca, avrò le antenne non dritte ma drittissime." Oppure un altro esempio, un'altra persona che non conoscevo, che alla fine dello spettacolo mi ha detto: "Io proprio domani mattina devo andare a ridiscutere una cosa in banca, mi stanno pressando da mesi per fare un cambio su una polizza, una cosa. No, ma io domani blocco tutto, io mi devo leggere tutte le carte." Oppure l'ultima cosa che mi viene in mente proprio in questo momento, una signora di una certa età anche lei, che alla fine di uno spettacolo, tra il serio e il faceto, mi fa: "Ma lei mi vuole inguaiare?" Faccio: "Signora, ma perché?" "E io adesso torno a casa e come la guardo in faccia a mia figlia?" E dico: "Signora, ma perché?" "È perché mia figlia lavora in banca e il personaggio che, appunto, uno dei personaggi che mutamente interpreta Daniela, ma mutamente fino a un certo punto perché poi fa dei suoni, dei rumori, è un personaggio che ricorre spesso nello spettacolo, non viene disegnata molto bene." E la signora, tra il serio e il faceto, ripeto, mi dice: e se mia figlia si comporta come si comporta la tipa di cui parla lei nello spettacolo, io come continuo a guardarla in faccia a mia figlia?" Ecco, questi, solo questi tre episodi mi sembrano esemplificativi probabilmente della fame rispetto a questo argomento, e ci fanno felici, perché il teatro è spettacolo, ma non è puro intrattenimento, è cercare di smuovere le coscienze, cercare di far pensare, è cercare di far venire dubbi. Ecco. Giovanni, in conclusione, ci lasci i riferimenti internet per saperne di più? Allora, noi abbiamo chiaramente le pagine Facebook, la mia personale che è Giovanni Meola e quella della compagnia che si chiama Virus Teatrali, quindi Giovanni Meola trattino Virus Teatrali, ma poi c'è il sito della nostra compagnia, www.virusproduzioni.it, Virus Produzioni perché c'è una sezione dedicata al teatro che è molto ricca e copiosa, perché la nostra compagnia fortunatamente riesce a fare continuamente progetti e farli vivere anche tanto, ma anche la sezione cinema, perché io sono anche regista cinematografico, ho collaborato con nomi anche molto importanti della scena italiana, Massimo D'Apporto, Giulio Scarpati, Maria Angela D'Abraccio, e nel corso degli anni sono stati diversi progetti. Ecco, nel sito ci sono un po' le due anime del nostro percorso, del mio percorso, e si trovano tante, tante, tante informazioni e tanti riscontri di tutto quello che abbiamo fatto finora. Ricordiamo, io so e ho le prove, la conversione di un ex manager bancario. Giovanni, di cui è autore, regista e attore Giovanni Meola, al Pactasalone a Milano dal 23 al 25 febbraio. Giovanni, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie, grazie.